sono molto convinta, una riforma può restare nel cassetto, assolutamente inapplicata, senza effetti, rappresentare una ennesima occasione sprecata se non è vissuta e non è vissuta in positivo. Ma per viverla in positivo bisogna convincersi che questa riforma ha aspetti buoni e su quelli bisogna lavorare. E poi, come ho detto molte volte, con spirito pragmatico di nuovo, se ci sono cose che non vanno, le possiamo cambiare. Come tutte le persone intellettualmente oneste devono essere disposte a fare quando anche hanno firmato una norma, vedendo che quella norma non dà gli effetti sperati.